Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Riprendiamo le buone abitudini pre pausa agostana e quindi anche la rassegna stampa dedicata ai temi europei o alle questioni che in qualche modo toccano l'Europa, anche intesa, anzi soprattutto intesa come Unione Europea. E cominciamo da un editoriale del Guardian, tradotto da Internazionale, che si intitola Una lezione per la Apple. E qui chi magari ha seguito la rassegna stampa di questi ultimi giorni, perché la notizia è del 30 agosto, quindi ce ne siamo poi occupati nei giorni successivi, sa che c'è una piccola querelle sulla pronuncia di Apple, perché spesso in Italia si pronuncia Apple, ma gli americani invece la dicono proprio con la A, ve lo assicuro. Anzi, magari settimana prossima mi procuro un piccolo tutorial per convincere gli scettici. In ogni caso, il tema è molto serio e che dopo 2 anni di indagini, scrive il Guardian, il 30 agosto la Commissione Europea ha stabilito che la Apple ha ricevuto un trattamento fiscale privilegiato da parte dell'Irlanda, privilegiato e molto redditizio, visto che si parla di 13 miliardi di euro di imposte non pagate al governo irlandese. Perché questa è una questione europea? Perché in realtà è un regime fiscale assolutamente non allineato con quello di tantissimi altri paesi, non che gli altri paesi siano tutti allineati. Per parlare di noi, anche l'Italia concede delle aliquote particolari che sono frutto di accordi in cambio dei quali naturalmente le multinazionali si impegnano a investire nel nostro paese. Però questo caso della Apple è eclatante, perché la Apple è arrivata a, e sappiamo che l'azienda insieme a Google si contendono un po' il primato della più alta capitalizzazione alla borsa di New York, ed è arrivata a pagare lo 0,005 di aliquota sugli utili, e quindi è una questione che è diventata europea. Infatti, conclude l'articolo del Guardian, è impossibile non trarre dalla questione alcune lezioni sul futuro del Regno Unito al di fuori dell'Unione Europea. Per molto tempo la City di Londra è stato un paradiso fiscale, la capitale del mondo ricco dove non si facevano troppe domande. Mentre si appresta a delineare il futuro del Regno Unito fuori dall'Unione Europea, la premier britannica Theresa May subisce la pressione di chi vorrebbe che il paese si avviasse in maniera ancora più decisa in quella direzione, trasformando cioè tutto il Regno Unito in un'area speciale liberista dove le aziende che fanno promesse mirabolanti ricevono trattamenti di favore. La vicenda della Apple in Irlanda dimostra invece che queste promesse non sono mai davvero buone come sembrano. L'investimento diretto straniero si rivela essere un arricchimento indiretto di pochi, mentre l'economia del paese si indebolisce ancora di più. E con questo abbiamo anche appunto ritoccato il tema della Brexit, ma proprio oggi parlavo con la nostra corrispondente da Londra, Nicole degli Innocenti, nostra del Sole 24 Ore, e diceva che c'è tanta incertezza a Londra, perché Theresa May, la nuova premier, che è subentrata a David Cameron, che ha dato le dimissioni proprio per aver sostenuto il Remain, cioè il restare nell'Unione Europea, e quindi aver perso il referendum del 23 giugno, ebbene Theresa May non ha ancora fatto quei passi necessari, magari non per delineare con le istituzioni europee il percorso della Brexit, ma per dare delle indicazioni pratiche a chi deve lavorare con delle nuove regole, in particolare tutti i cittadini dell'Unione Europea che non sono britannici. Un altro tema caldissimo della settimana che sta per finire è quello di Calais, perché sapete che mercoledì le autorità sempre britanniche hanno annunciato di voler finanziare la costruzione di un ponte a Calais. Calais è il porto su suolo francese, perché di un muro, questo è un lapsus interessante, è il contrario di un ponte, un muro, è un muro che impedisca ai clandestini di in qualche modo di imbarcarsi con un mezzo che li porti a attraversare la Manica, arrivare nel Regno Unito, o addirittura a nascondersi o a utilizzare dei mezzi invece che usano il tunnel sotto la Manica, quindi i grandi tir. Sono stati stanziati, dicevo, 2 miliardi, addirittura si parla già della data in cui questo muro potrebbe essere completato, che sarebbe la prima metà del 2017, e ci sono state infinite polemiche su questo, perché appunto muri in Europa pensavamo di non vederne più dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto il crollo di quello di Berlino, che divideva la Germania Est dalla Germania Ovest, e quindi Berlino, l'ex capitale, che poi lo era diventata capitale, quello è stato nel 1989. Invece nell'ultimo anno i muri hanno ricominciato ad alzarsi in Ungheria e adesso forse addirittura nella civilissima Francia, con soldi del civilissimo Regno Unito. Ne parla un articolo di Liberation, La giungla eterna dei migranti di Calais. In realtà questo articolo precede l'annuncio del muro, però fa capire in quale emergenza sia questa città, dove gli immigrati non sono una novità di questi giorni, e siccome alcuni di loro sono riusciti a passare, ma in stragrande maggioranza non sono riusciti ad andare nel Regno Unito, che sarebbe stata la loro meta finale, si sono creati in modo, potremmo dire, spontaneo delle vere e proprie tendopoli, con naturalmente totale assenza di servizi igienici o servizi sanitari. E quindi Stéphanie Maurice di Liberation è andata a vedere questi campi e ricorda che a primavera di quest'anno le autorità francesi avevano provato a sgomberare questo accampamento alla periferia della città, ma con l'estate, sappiamo, favoriti dalle condizioni meteorologiche, i profughi sono tornati e sono più di prima. A proposito di rifugiati, migranti e quelli che a seconda proprio dei punti di vista, anche su questo sono stata ripresa da alcuni ascoltatori, si possono chiamare immigrati clandestini, in ogni caso persone che arrivano da fuori dall'Unione Europea e cercano di trovare asilo politico o ospitalità o di entrare clandestinamente nei paesi dell'Unione Europea. Vox Europe, il sito che ho ripreso naturalmente a consultare, anzi in realtà forse non ho mai smesso adesso che riprende la nostra rassegna, e che vi cito sempre come un sito che fa quest'opera meritoria di monitoraggio, un po' quello che cerchiamo di fare anche noi, tant'è che appunto spesso li cito, di quello che di temi europei, di come se ne discute in Europa e non solo. Questa settimana, qualche giorno fa, ha pubblicato questo resoconto di un sondaggio condotto dal Pew Research Center, che dimostra come gli europei, i profughi, fanno aumentare il rischio di terrorismo e non la criminalità. Una recente inchiesta svolta in 10 paesi europei rivela che la maggioranza dei cittadini teme che l'aumento del numero dei rifugiati possa far aumentare la probabilità di attentati terroristici, ma che gli immigrati non siano all'origine di un aumento della criminalità. E non c'è di fatto nei numeri di questo sondaggio una visione sfavorevole dei musulmani nel loro complesso. Questa indagine è stata, purtroppo però dobbiamo dire, è stata condotta nella primavera del 2016, quindi prima dell'attentato a Nizza di luglio. I paesi in cui si crede di più al rapporto di causa-effetto fra profughi e terrorismo sono l'Ungheria, che abbiamo citato come il primo paese che ha annunciato senza mezzi termini di voler costruire un muro ai suoi confini, 76% degli intervistati ungheresi lo ritiene verosimile, la Polonia 71%, i Paesi Bassi e la Germania 61%. In Francia il 46% ritiene che l'ingresso dei rifugiati faccia aumentare questo rischio, nel Regno Unito il dato è al 52%. A proposito invece di Italia, perché di questo si sono occupati molto i giornali in questi giorni, soprattutto i giornali europei, c'è naturalmente la questione della giunta di Roma, così come aveva suscitato molto interesse, attenzione e anche aspettative in Italia, ma anche all'estero, l'elezione di Virginia Raggi a sindaco di Roma, per due motivi: primo, perché è una donna ed è la prima donna sindaco di Roma, e poi perché appartiene al Movimento 5 Stelle, che è una novità politica del nostro panorama, ma anche nel panorama europeo. Abbiamo detto tante volte, non è un partito, così loro non vogliono essere chiamati, è un movimento politico cresciuto molto in fretta, a seconda dei sondaggi in questo momento è il primo o il secondo partito in Italia, però c'è questo pasticcio, chiamiamolo così, della giunta Raggi, che non riesce a prendere veramente una forma, e col conseguente terremoto nel Movimento 5 Stelle. E qui le posizioni divergono, c'è chi ha definito, come il quotidiano tedesco Die Welt ha spiegato, che in fondo è successo quello che si temeva fin dall'inizio, cioè che l'impreparazione di Virginia Raggi e di molti altri del Movimento 5 Stelle ha portato a questo. Le Figaro, per cambiare paese, dice: è ovvio che la Raggi e il direttorio dovranno rimediare al più presto, perché le premesse non sono molto incoraggianti. È un po', poi devo dire che non soltanto all'estero, ma anche noi stiamo un po' cercando di capire, dopo il comizio a Nettuno di mercoledì sera degli esponenti del Movimento 5 Stelle, se veramente adesso, diciamo, la giunta è stata messa in sicurezza. Ultimissima segnalazione dalla Bild, che ha approfittato della sconfitta elettorale di Angela Merkel domenica scorsa nelle amministrative del Land del Mecklenburgo per attaccare la cancelliera, la CDU, e predire che le elezioni che ci saranno a Berlino il 18 di settembre saranno un'altra sconfitta per Angela Merkel, il suo partito e soprattutto le sue posizioni europeiste, così le definisce la Bild. Era l'ultima segnalazione per oggi, ci risentiamo però domani per la rassegna stampa dei quotidiani e poi naturalmente sabato prossimo per un'altra rassegna stampa europea. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.